Buonasera a tutti, ciao a tutti da Cristina dei Colori dell'Anima e anche da Barbara, ciao, buonasera a tutti. Ciao, come state? Bentrovati. Abbiamo iniziato questa sera una nuova puntata dei Colori dell'Anima. Ricordiamo a tutti che ci potete ascoltare, siamo su 101.9 e ci potete ascoltare anche online sul sito www.radioalma.eu e scegliete i Colori dell'Anima. Mentre... E ci potete scrivere su Facebook, sì, su i Colori dell'Anima pure. Esatto. E se volete invece chiamarci in diretta, il numero di telefono è il 02-345-2656. Perfetto. Quindi abbiamo cominciato questa serata un po' soft, tranquilla, con José James, un po' di jazz. E questa sera parliamo... Come si intitola la puntata di stasera? Ho già dimenticato. Abbiamo detto continua. Sì, continua. Continua. Perché, Cristina, abbiamo scelto questo titolo misterioso? Molto misterioso, perché questa sera parliamo di un argomento che si ripete nei secoli, negli anni, e parliamo di spostamenti di popolazioni dai vari continenti, dai vari paesi, dalle varie nazioni in Europa, dall'Europa verso l'Europa, verso l'America. Parliamo di emigrazione, immigrazione. Ok, brava. Che è un processo che ci riguarda, no? Sì, tantissimo, noi siamo due immigrate, quindi... Noi siamo immigrate, anche noi, come una buona fetta della popolazione brussellese, sì. E allora, abbiamo scelto questo tema perché avremo anche un ospite molto speciale oggi con noi, che deve ancora arrivare. Sì. Allora, il nostro ospite, Cristina, vuoi rivelarlo tu? Va bene, lo rivelo. Allora, vi anticipiamo che questa sera sarà con noi Giacomo Lariccia, che ormai non ha più bisogno di presentazioni, perché ormai è un nome conosciutissimo. Quindi siamo molto contente di accoglierlo in trasmissione. Verrà tra poco. E ci parlerà lui un po' di lui stesso e poi anche del suo nuovo disco che sta per uscire in questi giorni. Sì, e lui ci racconterà un po' meglio tutto questo. Ma intanto noi vogliamo parlare un pochino di questo tema dell'immigrazione, vogliamo introdurre un po', e io introdurrei con un consiglio letterario. Mm-hmm. Un consiglio di un libro che sto leggendo in questo periodo, di Laurent Godet, che si chiama El Dorado. È un libro in francese, probabilmente è disponibile anche in traduzione italiana, ma sicuramente tutti gli italiani di Bruxelles parlano molto bene francese, quindi saranno molto contenti di leggerlo anche in francese. E io lo consiglio a tutti quanti perché il libro parla delle popolazioni che si avvicinano all'Italia, come appunto l'Eldorado, come questo luogo di lavoro, ricchezza, e soprattutto in particolar modo tutti gli immigrati che vengono via mare e che sbarcano sull'isola di Lampedusa. Mm-hmm. Una storia che conosciamo molto bene. Sì, purtroppo. È molto, purtroppo molto seria e commovente, però il libro è davvero bello e racconta proprio le cose da un altro punto di vista, dal punto di vista di uno di questi uomini della Guardia Costiera che ogni notte escono a largo e vanno a recuperare delle vite, a salvarle dall'acqua, dal mare. Mm-hmm. Quindi è molto, molto commovente, molto bello. Quindi vi invito a leggerlo, Laurent Godet, El Dorado, lo trovate in tutte le librerie, in vari formati. Me lo presti? A te te lo presto, va bene. A Barbara glielo posso prestare. Va bene, Barbara. Non abbiamo detto il colore. Ah no, giusto. Allora, il colore della nostra puntata, abbiamo scelto il... il verde, perché il verde significa un po' il colore della speranza. Sì, verde mai speranza perde, ecco, si dice. Da me si dice così. E quindi un po' questa, gli immigrati o gli emigrati sono persone con tanti sogni, un po'. Sì, vabbè, sì, se no non lascerebbero il loro paese, immagino. Quindi tutti noi che siamo partiti anche in un altro posto per varie ragioni, comunque abbiamo tutti avuto un sogno, perché siamo partiti, non era per non far niente, per stare peggio, era per stare meglio e per, certo, trovare un futuro buono, quindi per inseguire un Eldorado. Anche noi. Tu l'hai trovato il tuo Eldorado, Cristina? Ma in parte sì, in parte no. Credo che questa è la risposta che tanti di noi direbbero, perché sì, è sempre comunque difficile lasciare la patria. Dall'altra parte comunque interessante, si impara tanto, si conoscono tante persone interessanti, ma si torna sempre volentieri a casa. Sì, certo, si torna sempre volentieri. E poi chi lo sa, tu pensi di restare qua per sempre? E chi lo sa? È quello. Queste sono domande dal senza fondo. sono buchi senza fondo, non lo so. Sì, stesso per me. Ma penso che sia, non sia soltanto una condizione nostra, penso che anche il mondo di oggi è un po' così, molto frammentato, senza regole precise, tutto molto vario, tutto può cambiare all'improvviso, quindi credo che molte persone, cioè che veramente sono poche le persone che dicono sì, io voglio così, sarò così, sarò così. E resto qui, non mi muovo da qui, sì, è vero. Sì. Va bene, mettiamo un'altra canzone? Sì. Adesso mettiamo una canzone molto internazionale, usciamo dall'Europa. Amadou e Mariam, due musicisti del Mali. Wow. Je pense à toi. Rieccoci qua, siamo di nuovo in linea con I Colori dell'Anima. E se il nostro ospite è quasi arrivato, credo che sia appena arrivato, quindi Barbara, ti lascio la parola e vado a prendere il nostro ospite. Wow, che bello, adesso aspettiamo Giacomo Lariccia e vediamo un po' cosa ci racconta il suo nuovo album, sulla sua vita qui a Bruxelles, come si trova, da quanti anni è qua. Sono tutte domande che mi chiedo io, che sono già curiosa di conoscerlo. Chi lo sa, forse ci canterà pure una canzone live lui, ma se no comunque abbiamo delle canzoni che presenteremo del suo nuovo album. Li sento già arrivare lì dietro. Sì, stanno proprio arrivando. E quindi fra un po' avremo tutte le risposte alle nostre domande. Sì, buonasera, allora il nostro ospite è arrivato in trasmissione. Ti puoi mettere proprio lì di fronte. Ecco, adesso cerchiamo di organizzarci e intanto continuiamo la nostra chiacchierata sull'immigrazione e sulla nostra puntata che si chiama come si chiama? Si chiama Continua perché? Perché parliamo di un argomento che si ripete sempre, da sempre e che ci riguarda tutti. E che è anche un argomento di conversazione molto controverso. Ma intanto vogliamo dire buonasera al nostro ospite. Ciao Giacomo. Buonasera, devo ancora cercare di sistemarmi. No, forse prova allora lì, se è quella un po' più alta. Sì. Come si sente? Sì, si sente. Sì. Okay, perfetto. È proprio la diretta. Ma stavi dicendo, Cristina, che abbiamo scelto il titolo Continua anche perché l'album del nostro ospite si chiama, come si chiama Giacomo? Vuoi rivelarlo tu? Il mio disco si chiama adesso Sempre Avanti, che non me lo ricordavo. Ecco, siamo un po' smemorati questa sera. Sempre Avanti, sì. Perfetto. Si chiama, e ci sono dei brani che parlano anche della mia realtà di vita, sì, che è quella dell'emigrazione. Quindi noi stavamo un po' parlando dell'immigrazione come fenomeno che ci riguarda in Europa, ma anche di tutti gli spostamenti delle popolazioni nel mondo, e abbiamo anche parlato di un autore che Laurent Godet parla degli immigrati che arrivano sull'isola di Lampedusa, di questo libro Eldorado, e magari lanciamo una canzone con cui possiamo introdurre questo tema con gli occhi tuoi, come lo vedi un po' tu. Quindi, eccola qua, 60 sacchi di carbone. Colori dell'anima, siamo Cristina, Barbara e è arrivato Giacomo Lariccia con noi, il nostro ospite. Buonasera ancora Giacomo. Buonasera, grazie per avermi invitato. Sì, siamo molto contenti di riaverti qua. In realtà non è una novità, siamo molto contenti che ritorni da noi, perché ti abbiamo avuto qui in radio 2 anni fa, credo. Sì, sì, più o meno, sì. Quando è uscito il tuo primo disco, che era poi il secondo. Il primo, sì, è del 2007, poi 2011 e adesso 2014. E il primo disco era di un genere completamente diverso? Completamente, sì. Non cantavo, era solo un disco da solo. Era un disco da chitarrista e jazz, un jazz moderno con influenza di world music, che fra poco si troverà anche lui su iTunes, fra qualche settimana. Ok, perfetto. Ma questa sera siamo qui per presentare il tuo nuovo album, Sempre Avanti. E allora, come hai scelto questo titolo, Sempre Avanti? Allora, Sempre Avanti non doveva essere il titolo del disco all'inizio, ma solamente il nome della non sento bene, ecco, questo sì. Ma il nome della come si può dire, della, adesso scusatemi la stanchezza, di una canzone, di una campagna che doveva sostenere la produzione del disco, per cui avevo pensato, sì, era un progetto di crowdfunding, di finanziamento collettivo, di produzione collettiva, e quindi avevo pensato come chiamare questo progetto, e mi era venuto in mente Sempre Avanti. Dopodiché, quando stavo negli ultimi giorni prima di mandare in stampa il disco, mi stavo scervellando, mi stavo distruggendo, macerando per cercare un titolo giusto, non lo trovavo, erano tutti orribili. Qualcuno mi ha detto: ma scusa, ma ce l'hai davanti agli occhi il titolo del disco per diversi mesi? C'era pure un pezzo, il primo pezzo che apriva il disco. Allora ho detto: Sempre Avanti sarà il nome del disco, e sono molto contento. Sì. Anche se bene. Fa un po' partito socialista, ma non era quello l'intento, assolutamente. non era assolutamente quello. Non ci avevamo pensato, quindi. Bene, allora vuol dire che funziona. Non ci avevamo pensato affatto. No, è molto bello il titolo. E poi sul tuo sito hai scritto anche Sempre Avanti, no, posso anche leggerlo, ce l'ho. Prego. Qua, se funziona ancora il mio cellulare. No, è morto. Ah no, aspetta. Allora, hai scritto Sempre Avanti, tipo 4-5 ragioni, allora ce l'ho qua. Alla ricerca della frase. Ecco. Sempre avanti è l'energia che ci permette di guardare il futuro a testa alta, è il desiderio di non arrendersi, di continuare a cantare alla vita. Poi, questo è il primo Sempre Avanti. Il secondo, Sempre Avanti è la ricerca di quell'equilibrio che fa vivere meglio, quella miscela misteriosa di energia e nostalgia, impegno e leggerezza. Molto bello questo. Sempre Avanti racconta l'epopea degli emigrati italiani in Belgio e del lavoro nelle miniere di carbone. Come abbiamo sentito il pezzo? Quello, ecco. 60 sì, sacchi di carbone. Mm-hmm. Il penultimo Sempre Avanti è immagina un giudizio universale dove i 7 peccati capitali sono scanditi e rivisti in salsa italiana, e racconta la Bruxelles dei talenti in fuga dall'Italia, della loro ricerca di vita e di futuro. Questo in sottofondo non sono io, non è il mio disco. No, c'è un fantasma che si sta impossessando della nostra radio. Di Radio Alma. Intanto io continuo con i Sempre Avanti, che sono molto ma belli. Questo testo è un po' il testo che alla fine descrive il disco, nel senso tutti questi sono gli elementi che mi hanno spinto a scrivere pezzi. E rieccoci qui con I Colori dell'Anima, con un piccolo intermezzo musicale. Fantasma. Fantasma. Allora, Giacomo, stavi raccontando. Stavo raccontando che tutte quelle descrizioni sono un po' gli stimoli che hanno portato alla creazione di questo disco, ovvero la voglia di fare un disco che fosse impegnato, che avesse dei colori di impegno, ma anche dei colori di leggerezza e di divertimento, anche che raccontasse quindi delle storie come quella degli immigrati, ma che fosse anche un disco da ascoltare con piacere in un momento di distensione. E per quanto tempo ci hai lavorato su questo disco? Allora, abbiamo iniziato a lavorarci un anno fa. Bene. Abbiamo proceduto, sì, se non sbaglio, febbraio, era proprio 10 febbraio, mi sembra, guarda caso, siamo proprio vicino all'anniversario. Era un anno fa, insieme a Marco Locurcio, che mi accompagna ormai da diversi anni nella produzione dei miei dischi, e abbiamo iniziato a idearlo e a metterlo in pratica piano piano. Okay. E era stato un bel lavoro e sono molto soddisfatto. Bello, sì, no, quante canzoni? Sono 13 canzoni. 13. Mm-hmm. 13 canzoni, 12 canzoni anzi, è un brano che è un po' una sorpresa, che si chiama La Miniera, che è stato fatto in collaborazione con il Centro Culturale di Genk, che ha fornito del materiale sonoro di un'esposizione che si chiamava, la spedizione nelle miniere, Mine Expedition, e con quel materiale lì abbiamo creato questo pezzo che si chiama La Miniera, ed è un brano di suoni, di atmosfera, toccante. Wow, sono curiosa. Quindi il lancio del disco sarà giovedì 20, questo giovedì, cioè fra 3 giorni, al Teatro dell'Istituto Italiano di Cultura. Sì. Con 5 musicisti, ci saranno anche delle proiezioni, sarà un concerto multimediale, per cui saranno anche immagini, suoni e luci, tutto. E come si fa per partecipare? Allora, per partecipare ci si trova alle 19 davanti al teatro. Bisogna iscriversi. No, si può prenotare il biglietto, anche perché appunto abbiamo il sospetto che, insomma, io spero che ci sarà un tutto esaurito, quindi se qualcuno vuole prenotare il biglietto lo può fare attraverso il sito dell'istituto o attraverso la pagina Facebook, attraverso la mia pagina, o comunque, sì, comunque solo elettronico, un biglietto elettronico. Quindi si può prenotare il biglietto online, si può partecipare anche a un rinfresco, mi sembra? Sì, allora, sì, c'è un aperitivo all'inizio. Che può essere, il biglietto costa 10 euro, con l'aperitivo costa 15, oppure per i soci ci sono gli sconti, adesso nell'istituto sono 8, esatto, e 12 o 13, non mi ricordo, e il concerto inizia alle 20:30. Ok. E niente, sarà un bellissimo concerto, no? Io non vedo l'ora di iniziarlo, perché darà il via appunto a questa fase che stavo dicendo prima, a microfoni spenti, di promozione, di che bello, però la cosa più bella, insomma, alla fine è quella di trovarsi e avere la possibilità di veramente risuonarle e cantarle davanti al pubblico. Esattamente. Bene. Ci credo. Ma magari anche questa sera ci può suonare qualcosa per il nostro pubblico della radio? Perché no? Prima ascoltiamo un altro pezzo? Sì, ascoltiamo un altro pezzo. Volevo solo farti una domanda sul pezzo che abbiamo appena ascoltato. Questi 60 sacchi di carbone, allora, erano veramente 60 sacchi? No, il pezzo parla dell'accordo, il patto del carbone, firmato nel giugno del 46 fra l'Italia e il Belgio, che prevedeva uno scambio fra minatori. Per ogni minatore lo Stato belga si impegnava a fornire una determinata quantità di carbone, che nella mia canzone è diventato 60 sacchi di carbone. Poi c'è il famoso libro edito dalle ACLI, che si chiama Per un sacco di carbone. Alla fine nessuno dei due dalla dimensione esatta, non è quello l'obiettivo, insomma. L'obiettivo è dire che, come canta il ritornello, quanto vale un uomo è difficile da spiegare, però esatto, quel tempo era chiaro come il sole che un uomo vale 60 sacchi 60 di carbone. 60 sacchi di carbone, esattamente. Questo è, sì, sempre toccante. Io penso che poi alla fine ci sono tante riflessioni da fare. Quella che ho fatto io prima di avvicinarmi a scrivere questi pezzi è stato: come posso io, che non ho, che non ho questo vissuto, permettermi di entrare nell'intimità di queste storie, raccontare una storia che non mi appartiene in qualche modo. Allora ho cercato dentro di me, fatto degli sforzi, per leggendo dei libri, ascoltando delle persone. Sono andato a leggere i giornali dell'epoca che parlavano di alcuni momenti importanti, come per esempio la tragedia di Bois Ducasier, e ho cercato dentro di me di trovare le motivazioni che avevano spinto quelle persone a lasciare l'Italia e a cambiare paese, a cercare di migliorarsi. In queste motivazioni, in questa spinta che io considero anche un po' mia in qualche modo, sono riuscito a sentirmi vicino a questa avventura, a questa epopea, che è passata appunto per momenti molto difficili, ma è arrivata oggi ad una fase anche della quale bisogna essere orgogliosi, il fatto che un primo ministro abbia un cognome che non nasconde le sue origini, che ci siano artisti, che ci siano nel mondo del lavoro, appunto nell'arte, nella musica, persone che non nascondono le loro origini italiane attraverso i loro cognomi, attraverso la loro lingua, e che vengono da questa storia difficile di emigrazione nelle miniere, è qualcosa di cui tutti, anche chi non ne fa parte, dobbiamo tutti andarne orgogliosi. Possiamo tutti sentirci orgogliosi di questo, sì. Anche perché noi siamo un po' il prolungamento di questa onda di emigrazione, un po' diversa, con delle motivazioni diverse. Ma io penso che le motivazioni sono le stesse, ecco questo. Le motivazioni sono le stesse, il cercare qualcosa di meglio, di quello che il lasciarsi alle spalle, comunque avere il coraggio. È vero che a volte questo coraggio è un obbligo, nel senso che se non riesci a mettere insieme la cena e il pranzo sei obbligato, però è vero che c'è, esatto, anche tanta gente che è restata, per cui alla fine quelli che sono partiti, nel nostro caso, come 50 anni fa, sono quelli che volevano mettersi in gioco, quelli che dicevano ce la posso fare. Che avevano un sogno, che volevano migliorare la loro vita, che volevano migliorare le condizioni di vita, che non avevano paura del cambiamento. Forse. Sì. Mm-hmm. Per questo io penso che le motivazioni interne erano le stesse, le condizioni erano molto diverse, molto molto diverse, non voglio assolutamente paragonarle, anche dell'arrivo qui, noi siamo arrivati in una Bruxelles, in un'Europa, in un Belgio che comunque aveva conosciuto tante ondate di immigrazione. All'epoca sì, l'immigrazione italiana ha completamente trasformato il profilo demografico di alcune zone, nel senso che c'erano, sì, accanto ad alcuni villaggi venivano create all'inizio queste nelle baracche della guerra, che diventavano proprio dei piccoli villaggi completamente separati dal, sì, villaggio belga, e comunque l'incontro fra i due è stato spesso scioccante, difficile, molto traumatico, perché era potentissimo, era uno scontro di dimensioni, 500.000 persone si ipotizza che abbiano seguito e accompagnato i 50.000 minatori previsti da questo scambio. È una cifra enorme. Sì, esattamente. Poi per un paese anche piccolo come il Belgio. Assolutamente. Quindi è stata una piccola invasione, possiamo. E questo ha portato a tante difficoltà di integrazione, anche di problemi, dei casi di razzismo. Tutti sappiamo dei famosi, sì, cartelli, no? Vietato ai cani, agli italiani. E agli italiani, esatto. E tutto ciò è stato superato, onore quindi in questo caso al Belgio, che è riuscito a reintegrare e che spero continui ad integrare, mm-hmm, nonostante ci siano delle tendenze. Quindi possiamo dire che noi siamo stati un po' fortunati come immigrati, sì, perché arriviamo in una città multiculturale, anche in un'Europa ormai aperta, senza frontiere, quindi dove è un po' più semplice. Il lavoro sporco l'ha fatto qualcuno prima di noi, diciamo. Sì. Ci ha aperto le porte. Sì, esattamente. Sì, di questo Eldorado. Ma magari parliamo dopo dell'Eldorado. Mandiamo una canzone. Mandiamo una canzone che mi fa molto ridere, mi piace molto, che si chiama Il primo capello bianco. Sì. E rieccoci, siamo di nuovo in onda con I colori dell'anima, 101.9, sempre su Radio Alma, ci potete seguire da radioalma.eu, e questa sera stiamo parlando di... Continua del tema immigrazione. Esatto, ma soprattutto abbiamo un ospite d'eccezione, siamo molto contente di averle con noi, Giacomo Lariccia, che presenta il suo album tra qualche giorno, il 20 febbraio, all'Istituto Italiano di cultura qui a Bruxelles, e poi ci sono tante tappe anche in Italia subito dopo. Sì, perché magari le annunciamo. Sì, base, cioè, parto la domenica per andare, sì, a suonare a Firenze, sì, poi Roma, e poi Milano, vicino Milano, e poi una data in Piemonte, Pernusco sul Naviglio, e poi si ritorna qui a Bruxelles. Ritorna a Bruxelles. Ma io avevo una domanda. Questo fatto di essere un po' tra il Belgio e l'Italia, com'è il tuo pubblico tra il Bruxelles e l'Italia? Senti, com'è? La differenza del pubblico, intendi? Sì, oppure gli italiani di Bruxelles e gli italiani che incontri nei tuoi concerti quando vai in Italia? se c'è, forse questa domanda, non c'è, non lo so. No, una domanda interessante, perché io mi sento profondamente bruxellese d'adozione, quindi sento che la mia città è Bruxelles. Okay. Quindi sento di avere, fra virgolette, qui tutta. Non è che lo sento, ho fatto qui tutta la mia carriera fino adesso e sento di avere tante persone anche che mi seguono qui, quindi sento un affetto particolare qua. Mm-hmm. E in Italia mi sto lavorando, mi sto facendo strada, sto cercando di farmi valere, quindi è più una scoperta delle persone che di solito che mi ascoltano. Mm-hmm. Magari appunto grazie agli ultimi lavori, alcuni videoclip che sono stati un po' più fortunati, la gente mi ricorda: ah, ma allora forse tu eri quello che t'ho visto lì, la radio, e così. Sì. E quindi è un più un un'esperienza diversa. Comunque a me mi piace tantissimo, insomma, anche il fatto di suonare davanti a persone che non conoscono niente di quello che hai fatto è più motivante, più stimolante. Ma non lo so, è bello, divertente, insomma. Sì. Perché parti da un terreno che è completamente vergine. Sì, sì, sì. Sì, sì. Beh, poi l'Italia è molto più grande, molto più grande, quindi la gente così è magari sollecitata da tanti diversi artisti. Invece Bruxelles o comunque il Belgio è un posto più piccolo, siamo una grande famiglia, no? Sì, però allo stesso tempo anche qui c'è molto interesse per le cose nuove, anche quelle che non sono strettamente belghe, quindi c'è molta curiosità e quindi molto bello anche potersi muovere in due paesi, sì, di dimensioni diverse, ma comunque riuscire a mantenere il piede uno da una parte e uno dall'altra. Che fanno, sì. Questi due paesi fanno parte di te in realtà. Assolutamente, quindi è sì, sì. Tutto molto coerente. Sì, sì, sì, sì. Quindi qui tu hai trovato il tuo Eldorado, diciamo. Sì. Prima sì. Hai detto un'altra parola che non mi ricordo più, hai detto tutte le persone prima oggi che emigrano cercano una cosa di migliorarsi, però hai detto una parola che adesso non mi viene. Comunque tu hai trovato quello che cercavi. Ma io ho trovato una realizzazione umana e artistica. Mm-hmm. Qui, e quindi poi non so se Eldorado vabbè, l'abbiamo preso dal libro che abbiamo presentato. Okay. Il libro si intitola Eldorado. Ah, scusami, allora mi sono messo qualcosa. Però mi sembrava un paese un po' esagerato. Però io qui ero venuto a studiare per 3 mesi al conservatorio di Bruxelles. Poi questi 3 mesi, per una serie di coincidenze, io penso che la vita è fatta di tanti piccoli tasselli che, se si mettono tutti come in un puzzle a posto, questo ha un significato, no? E quindi quando sono arrivato qui ero venuto per 3 mesi ma semplicemente perché avevo i soldi per 3 mesi per stare da settembre a Natale, non perché 3 mesi fossero qualcosa. Ero iscritto al conservatorio, quindi se non avessi trovato un modo per restare sarei tornato indietro per mancanza di benzina. E invece ho trovato un modo per mantenermi agli studi al conservatorio, quindi un anno. Dovevo poi tornare in Italia a fare il servizio militare. Mm-hmm. Quindi oltre ai soldi c'era anche l'impedimento del servizio militare, e lì sono riuscito senza fare trucchi, ma utilizzando insomma, avevo problemi di asma, sono riuscito a essere esonerato. E anche quello è un altro tassello che si è venuto a mettere, quindi non più un anno ma 2, 3, 4, 5, adesso sono dopo. Ed è diventata la tua città. 14 anni che sto qui. Wow. È vero, è lunga. Noi con i nostri, non so, 6-4 anni. Sì, infatti. Prima Barbara faceva questa domanda: ma tu pensi di restare per sempre a Bruxelles? Ma chissà, non lo so, non si sa. Però intanto tu il tempo diresti, passa. Giacomo? Tu che risponderesti? Ma neanch'io lo so, anche proprio per questa condizione che mi tiene un po' con i piedi in due paesi, no? Però restare qui per me è una cosa, insomma, che non mi dispiace, un'idea che non mi dispiace. Quello che, naturalmente ognuno cerca per sé e per le persone care intorno a sé la felicità, la realizzazione, il benessere, non tanto inteso come benessere materiale, ma come lo stare bene, come l'essere felici. E per cui finché tutte queste condizioni ci sono, non ci sono motivi di andare altrove, insomma. Poi sappiamo tutti un po' l'Italia in che fase sta passando, per cui sì. Perché si formino le condizioni per tornare in Italia deve succedere qualcosa di speciale, che magari succederà, che io spero succederà, ma insomma. Sì, sì, durerà un po' ancora. Sì, oppure anche se non dovesse succedere. Può anche non essere un ritorno, può anche essere un cambiamento verso un altrove. Ma sì, chi lo sa? Non si sa. Sì, non quando so, si inizia ad essere migranti si cambia. Sì, vabbè, mica siamo con i cammelli che non siamo nomadi. No, non lo so, quello che io la vedo un po' ancora un po' più difficile, perché soprattutto anche perché non so, adesso mi penso alla mia situazione, insomma, avendo figli anche, certo, per cui muoverli in un'altra cultura, ancora in un altro paese, in un'altra lingua, non so se è una scelta che fare, ma insomma, poi parlando così in ci sono varie varie, come si dice, vari elementi, sì, che possono, sì, influire, che non sono solo quelli del lavoro, quelli della realizzazione professionale o della realizzazione meteorologica, ma sono anche quelli dell'equilibrio, della stabilità anche Intanto la vita va avanti, iniziano i capelli bianchi, si inventa, esatto. Molto interessante il testo di questa canzone che abbiamo ascoltato, perché si capisce solo alla fine che stai parlando del tuo capello bianco, sì, quindi è molto divertente. Era infatti l'obiettivo, insomma, no? Certo, perché si parla, certo, di una persona che non è voluta, che non è desiderata, che si è fatta vedere così all'improvviso, che non era aspettata, che si è nascosto esattamente, in mezzo al dolore, in mezzo al adesso non mi ricordo nemmeno come fa il testo, perché a parlarlo è diverso che cantare. Certo. E poi alla fine si scopre invece che non è una persona, ma è appunto questo capello bianco. Che è un segno del tempo che passa. E devo dire che è altrettanto divertente il video in cui tu sei travestito da capello bianco. Eh beh, ancora quello non c'è, perché sta in produzione. Però. E quindi fra qualche giorno è uscita un'anteprima. Sì. Adesso Cristina ha rivelato un piccolo segreto. È stato girato in due parti, una in una cosiddetta black box, ovvero una stanza tutta nera, e noi musicisti, giustamente per coerenza con i colori, eravamo vestiti tutti di bianco, e poi un'altra parte però invece dentro Bruxelles con un attore molto in gambe, italiano, che si chiama Alessandro, ma non mi ricordo il cognome, mi dispiace molto non poterlo dire, che ha interpretato il ruolo, insomma, che vedrete, spero, tutti nel videoclip che lanceremo, credo, la settimana prossima. Bene. Sì. Ma intanto... Vai. Hai detto il keyword, che adesso non mi viene in italiano. Hai detto Bruxelles. Sì. No, e io vedo la chitarra vicino a me. Che ne dici? Vuoi suonarci la tua canzone a Bruxelles? Live? Ascoltiamo Giacomo La Riccia, Bruxelles. Che bello. Che emozione. Penso che... Proprio ci parla a tutti, penso, no? Il sì. Penso che tutti gli abitanti di Bruxelles... Quando ascoltano questa canzone si sentono toccati, sì, nel cuore. Ma c'è qualcuno che ci sta chiamando? Non capita mai. Emozione. È un'altra emozione. Allora, vediamo un po' chi ci chiama. Però, Giacomo, devo dire, questo disco sarà un successo di sicuro, perché la canzone, tutte le canzoni che abbiamo sentito per adesso sono bellissime. Speriamo solo di sentire questo. Sì, sono delle canzoni che ci parlano, sì. Sì. È molto bello questa frase, che questa città che è di tutti e di nessuno. Sì. Penso che lo possiamo condividere tutti quanti, almeno noi stranieri. Allora, su questa parola, su questa frase qui, appunto, mi sono fatto anche molti problemi, perché forse mi sono detto, come reagiranno i brussellesi o i belgi a sentirsi, voglio dire, Bruxelles è anche al centro di un conflitto, no? Ma proprio per quello, secondo me, sta bene, no? Io non volevo dire che Bruxelles non appartiene al Belgio, ma volevo dire che è una città che ha accolto comunque persone di culture diverse. Ma in più anche in Belgio il Bruxelles è comunque una città un po', come hai detto già prima, controversa, tipo i fiamminghi, che appartiene a tutti, e che appartiene a tutti, ma anche a nessuno, perché non si sa a chi appartiene veramente, quindi no, bellissimo, sta proprio sì. Il testo, come lo scrivi? Io cerco di immaginarti, non lo so, la sera, siccome hai figli. No, la sera. La sera sei troppo stanchi. Cioè, per scrivere, non so, di solito le parole delle canzoni nascono da una piccola frase o da una parola. Mm-hmm. O da un piccolo nucleo che poi piano piano si allarga, un po' come quando uno con il dito nell'acqua crea una sorta di... E quindi piano piano se uno ha chiaro, oltre all'avere la parola che ti dà la scintilla, ha chiaro anche il percorso che si vuole fare nella canzone, uh-huh, e i colori che vuoi mettere nella canzone, alla fine si riesce a costruire una canzone che ha una coerenza. Uh-huh. Bello, bellissimo. Allora, adesso sappiamo che Cristina sta parlando con qualcuno al telefono. Sì, c'è in onda, al telefono c'è Monica, che è la mia ex collaboratrice, come, non so come chiamarla, sì, però la ragazza che faceva la trasmissione con me prima, e quando sei venuto l'altra volta c'era lei, e quindi vuole intervenire nella trasmissione. Allora, vediamo. Vuole salutarti, Giacomo, che... Ciao Monica. E lei non può parlare, però. Sì, può parlare. Vediamo cosa. Ciao Monica. Intanto però pronto concerto. Ah, ecco. Eccola, sì, eccola. Senta Milano. Monica. Sì. Ciao, ti sento pure io. Ah, ok, sì, io ti sento in ritardo, credo. Piacere di sentirti. Piacere. Ho sentito metà dell'intervista, ho acceso, però sentirò integralmente le tue canzoni a Milano. Va bene, sono felice, sono contento che ci rivediamo. Quindi, ah, va al concerto, brava Moni. Monica. Dovete chiudere, no? Sì. Sì. Grazie di aver partecipato, di averci fatto questa bella sorpresa. Avresti dovuto vedere la faccia di Cristina, come si è illuminata quando ha risposto al telefono. Io sono molto spontanea. È stato veramente un piacere, grazie Moni. Grazie. Ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao Monica. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Una puntata piena di imprevisti.